Con Elisabetta Pozzi che è in scena a Roma al Teatro Palladium dal 23 al 25 novembre con lo spettacolo Una bestia sulla luna. Ben trovata. Salve, salve a voi. Presentiamo questo spettacolo? Sì, volentieri. Trattasi di un testo scritto da un Richard Kalinowski, scrittore americano, che però avendo una moglie armena, si è interessato della storia degli armeni e ha immaginato una storia sicuramente inventata, ma verosimile però, perché si parla di un giovane uomo che emigra dopo il... stati praticamente uccisi tutti, c'è stato un genocidio degli armeni, quei pochi che si sono salvati, quasi tutti. Questo ragazzo che è emigrato in America procura una ragazzina di 15 anni e la fa arrivare in Armenia, e questa è la storia di due creature in un mondo completamente diverso da loro e il loro tentativo di riformarsi una vita. E quindi è un testo incredibile perché parla di una cosa atroce, di un terribile che diventa in certi momenti, però con la grande ironia di Kalinowski, il testo riesce a diventare leggero, no? Quasi gaio, quasi ironico senz'altro, ma anche quasi risibile, cioè fa ridere anche in certi momenti, ma è estremamente emozionante, è una storia molto viva, molto quasi cinematografica, però è davvero forte, sta avendo molto successo in giro, ecco. Rispetto al testo, com'è stata la messa in scena? Il testo, devo dire, indicava tutto, è un testo, ripeto, quasi cinematografico, è fatto di brevi scene, ogni scena, la scena più lunga durerà 8-10 minuti, c'è una serie di scene che raccontano da quando questa ragazzina di 15 anni arriva e poi passano a 5 a 5 gli anni, non so come dire, quindi si ritrova a vedere la vita in flash di una ventina d'anni almeno, anche qualcosa di più. È tutto va avanti in maniera furibonda, no? Molto, molto veloce, tutto quello che pensavano di poter realizzare non si realizza, però poi si realizza qualcos'altro che li rende estremamente, come dire, responsabili e in fondo anche specialmente lui riesce ad accettare questa condizione di sopravvissuto che non è facile da sopportare, no? E quindi si risolve in maniera molto, molto positiva, quindi con grande speranza. Cioè il testo è molto scritto, il testo non ha avuto bisogno di grandi maneggiamenti. Certo, abbiamo deciso che non ci doveva essere una scenografia, come dire, di dettagli armeni. Insomma, è una cosa molto pulita, devo dire, la scena, ma poi ci sono alcune proiezioni anche di immagini che riguardano quel periodo, immagini più moderne, in quanto il protagonista è un fotografo, quindi questo uomo armeno che è arrivato in America è un fotografo, quindi si vedono questi scatti che lui fa a questa strana famiglia che si ritrova ad avere, ecco. È difficile parlarne, se non che è chiaro, l'argomento principale è quello, siccome poi di genocidi e di stermini e di massacri si continua a parlare oggi, anche se ormai nessuno lo sa e comunque ormai le notizie non hanno più nessun valore, no? È tutto virtuale, curiosamente. Per cui ecco che a noi interessa invece parlare di qualche cosa che può comunque interessarci profondamente ancora. Oltre a questa capacità di leggerezza e ironia, quali sono le doti di questo testo che più hai apprezzato? Ma la capacità appunto di riuscire a raccontare veramente in maniera profonda e emotivamente forte, cioè con flash, cioè non c'è nulla di inutile, non so come dire, la capacità di una scrittura dove non c'è un chiacchiericcio così banale, sono tutte frasi, un linguaggio estremamente contemporaneo, estremamente facile, no? E anzi una lingua un po' sporca perché comunque si tratta di persone che... è una traduzione che abbiamo usato, abbiamo volutamente usato una traduzione molto, molto semplice, molto anche sporca, di un italiano comunque non così fluido. Secondo me la cosa importante è che riesce davvero a mettere a fuoco un problema, una cosa atroce, con quasi non te ne rendi conto, no? Cioè, ma non, sì, sicuramente attraverso quello che si diceva dell'ironia, della leggerezza, ma anche attraverso la capacità di scrittura. Cioè questo uomo scrive veramente bene, in America è conosciuto come drammaturgo, ovviamente in Italia questo ha fatto, tra l'altro è stato fatto in Francia, ha avuto 5 premi Molière in Francia, è un testo che hanno fatto Irina Bruck con una compagnia meravigliosa al Théâtre du Bif du Nord, che è un grande teatro, un teatro francese di Peter Bruck, e la figlia di Peter Bruck, Irina, l'ha messo in scena nel 2000. Ebbe un tale successo che fu replicato per un numero di repliche incredibile, arrivarono a 600. Charles Aznavour, che come sapevi sicuramente sai, era armeno, comprava le intere serate addirittura per poter invitare gli amici che anche magari passavano da Parigi, no? Perché diceva che era uno spettacolo straordinario, che riusciva a parlare di questa tragedia, però sotto forma di una grande, come un racconto, una specie di strana favola, con lieto fine, perché poi alla fine, anche dopo le tragedie, c'è sempre qualcuno che torna a sperare, perché la speranza è chiaramente è una grande chance che noi possiamo, che abbiamo noi umani. Allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Una bestia sulla luna a Roma al Teatro Palladium dal 23 al 25 novembre. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Elisabetta Pozzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, viva il lupo, come si dice oggi, Ciao ok? Ciao, ciao, Elisabetta. ciao.